Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Vi siete mai domandati di cosa tratti questa nuova sigla? Vi ho promesso che vi avrei fatto una trasmissione dedicata, intanto ve l'ascoltate, vi entra dentro, cominciate a sentire anche se poi non si capiscono tutte le parole per chi non sappia bene il francese. Vi accenno soltanto che è Jean Moreau, che è una donna, che parla come se parlasse un uomo. È un uomo che parla di una donna fatale, una donna che l'ha stregato, di una donna i cui occhi lo hanno rapito, una donna con una voce bellissima, una donna che cantava, con la quale allaccia una storia d'amore fantastica, fatta di lasciti e di riprese, è fatta di fughe e di e rincontri, e ogni volta in questo turbine della vita, in questa sorta di vortice che lo prende, che lo lascia, che lo riprende, si domanda come mai questa donna non sia la donna con cui lui vuole stare accanto, vuole stare assieme, ma si rende conto che nella macerazione, nel dolore, nel desiderio, nell'attesa di prendersi e lasciarsi, si cela il vero segreto del fascino di quella donna. Beh, questo probabilmente nella poesia, nella possibilità di spalmarlo sulla biografia di ogni uomo e donna che ascolta, ogni donna sogna di essere stato, di essere o di essere magari in futuro la donna fatale per qualcuno. Ogni uomo, guardando il suo ricco, scarno carnet delle conquiste, degli amori, delle delusioni, delle frequentazioni, ha sempre qualche donna i cui occhi, nella sua immaginazione, nel suo ricordo ingigantito dall'astinenza, hanno qualcosa di magnetico, di fatale. Beh, cosa ho detto questa mattina? Ho detto un'infinità di luoghi comuni sulle donne. E questa mattina vorrò parlare di donne, di luoghi comuni che in realtà uccidono la capacità di essere fatali delle donne, ma allo stesso tempo ne rinforzano sotto sotto, nascostamente e misteriosamente, il fascino. Prego inquadrare spettacolare décolleté della signorina. Allora, bene, complimenti. Ho messo istintivamente, così protettivamente, una mano sulla spalla di Silvia Vallone e ho sentito un fremito di emozione, ma ancora ci emozioniamo. Dove... È giusto. Che significa questo? Non lo dico. Non lo è dice? Un segreto. È un segreto, vistoso il segreto, sì. Però, eh? Vabbè. Supplicherei questa mattina il cortese pubblico femminile e maschile di darmi supporto, che sono solo, solissimo, nessuno è voluto venire con me a parlare di questo argomento. Si sono tutti defilati, perché ancora parliamo di questa cosa, non ne parliamo più, che noia, sempre lo stesso argomento, cambiamo, vengo se parliamo di qualcos'altro. Invece voglio parlare di donne, voglio parlare del fascino delle donne, l'inarrivabilità delle donne, sono inarrivabili, ma allo stesso tempo sono vicinissime, allo stesso tempo sembrano inflazionarci con la loro presenza, allo stesso tempo la loro presenza crea dei grossi problemi anche all'interno del mondo femminile. Questo è stato il grande evento letterario di queste ultime giornate, è stata la premiazione del premio Campiello, avete sentito, Bruno Vespa provoloneggia con Silvia Vallone, che è una delle signore premiate, sottolineando, richiamando la telecamera di inquadrare la vastità immensa, la profondità tenebrosa della sua scollatura. La sfiora addirittura e sente un brivido, si meraviglia, cosa succede? Mi si è smosso qualcosa, qualcosa probabilmente non succedeva da eoni, da millenni. La Vallone mi sembrava tutta contenta, giustamente, perché su un palcoscenico circondata dal successo, una scrittrice esordiente, fatto un romanzo di cui tutti parlano, di cui nessuno parla male, non può trovarsi una sorta di regalità più invidiabile una donna. Può essere anche presentata in effetti con un discreto davanzale ben evidenziato. Vespa ha fatto una provolonata che se la poteva anche risparmiare, perché così a Napoli dicono rattuso, sa, di qualcosa, e dice ma mannaggia il diavolo, ma non ti tieni, ma che è successo? Che ti sei preso? Aspetta un attimo, vedi così. Questa cosa ha suscitato naturalmente il disprezzo della tosta durissima, che anche amica mia ve la ricorderete, Michela Murgia, autrice, vincitrice del Campiello, vera trionfatrice del Campiello, che però si è ahimè, arretrata di una posizione rispetto alla visibilità, rispetto alla Vallone. Il giorno dopo sul Corriere della Sera c'era un fotone gigantesco della Vallone, chissà perché, e una fotina un po' più piccola della Murgia, perché la Murgia sarà arrabbiata, ha detto insieme a Gad Lerne: questo è un gestaccio, che schifo, gli uomini ancora hanno questa idea del corpo delle donne da considerare come merce, via. Però anche la Murgia, amica mia, le voglio bene, aveva una discreta finestra aperta sulle sue generosissime parti alte, e quindi anche lei forse era lì per mostrare, oltre al talento, oltre alla capacità di suscitare emozioni in un vastissimo ventaglio, anche quella di far vedere qualcosa. Quindi 800 24 00 24, primo luogo comune su cui vorrei parlare, vorrei sfatare, perché le donne devono in qualche maniera vergognarsi del loro corpo. Se la natura le ha dotate di qualcosa che richiami attenzione, perché devono nasconderlo per mettere in evidenza la propria intelligenza, il proprio talento, la propria capacità di essersi coltivate? Fatemi sapere perché. La TV oggi ruba, deturpa, mina il paesaggio della coscienza di tutti. Ci toglie le radici e le fondamenta. Tesoro, vai pure che Tino deve darti un'occhiatina, vai, vai. Ecco, grazie. Puoi andare, grazie. Volti ricondotti a maschere dalla chirurgia estetica. Corpi gonfiati a dismisura come fenomeni da baraccone di un circo perenne. Chi siamo? Cosa vogliamo? Come mai tutte le donne d'Italia non scendono in piazza protestando per come veniamo rappresentate? Qua siamo sempre sullo stesso filone. Le donne che prendono a cuore la sorte delle altre donne. Io non sono poi convinto che ci sia questa sincera, profonda, afflato di sorellanza tra le donne. Lorella Zanardo è l'autrice di un libro, di un documentario, di un'idea che ha galleggiato, serpeggiato, movimentato da vario tempo, le varie piazze, caffè letterari, luoghi di incontro, luoghi di dibattito, luoghi di presa di coscienza, luoghi in cui il pensiero politicamente corretto viene fieramente impugnato, con il suo libro Il corpo delle donne, in cui sostiene, con un margine di ragione, che in realtà la televisione, la grande colpevole, ha creato questa sorta di insidiosa e vigliacca rappresentazione delle donne attraverso una maschera esteriore che dovrebbe compiacere la vanagloria, il desiderio, la provoloneria vespesca maschile. In realtà poco a che fare con le donne, perché le donne non scendono in piazza a protestare. Protestare contro cosa? Contro altre donne che tendono a impugnare l'apparenza fisica, l'avvenenza fisica, l'abbondanza di grazie libri come loro carta vincente. 800 24 00 24, vedo piuttosto tiepidini, non fa bene, non dà gusto, sembra un argomento scontato, sembra che parlare di donne è un argomento ormai consunto, logorato dall'abuso che ne è stato fatto, ma vi dico che ancora vale la pena. La verità sulle donne. Le donne migliori sono quelle belle dentro. La bellezza interiore è una qualità presunta e difficilmente dimostrabile. La nefasta fortuna che ebbe negli anni passati questo concetto ha reso infelici milioni di donne gradevoli, bellocce, interessanti e strafighe. Solo perché la natura le fa esteticamente avvantaggiate, sono costrette a sentirsi inferiori alle millantatrici belle dentro, baffute e tronfie del loro culo bassissimo. Il culo bassismo, che in realtà è una categoria dell'esistenza femminile, su cui non c'è nulla da dire, se una nasce con il culo basso non è colpa sua, deve comunque in qualche maniera compensare questa sua dissimmetria estetica con altre qualità. Si mette i tacchi alti, si mette le gonne fatte in una certa maniera, se tende a compensare da un punto di vista di colpo d'occhio estetico. Ma se il culo bassismo diventa una categoria dello spirito, diventa una donna bella dentro. Comincia a coltivare la sua interiorità, la sua capacità di analisi, la sua dialettica, tutte giuste e lecite qualità. È giusto che faccia questo, è giusto che si senta apprezzata, è giusto che viva meglio, è giusto, come è giusto per ogni essere umano, che faccia al massimo per vivere al massimo. Ma perché devono sentirsi svantaggiate le donne che in realtà sono belle, nascono belle, che conquistano il colpo d'occhio, che lasciano la scia quando passano come se fosse una lumaca affascinante e tutti gli uomini la seguono come dei cani che seguono appunto il piatto della zuppa? Ma perché queste donne devono sentirsi in inferiorità perché sono belle? Nella scala gerarchica dei valori, perché l'intelligenza, la profondità, l'acume hanno un gradino superiore rispetto alla bellezza, al fascino, anche alla capacità seduttiva? 348-0024-0024. Marco, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Grazie, perché è il primo con coraggio. Guardi, io parlo di tutto ogni mattina. Io dico una cosa. Se la fanno tutti sotto, tutti hanno paura di sembrare politicamente scorretti. Mancherebbe, io sto un semplicissimo ragionamento. L'uomo d'altra parte discende, diciamo, dalla scimmia, forse è uno stereotipo. Comunque, vabbè, non è esattamente dire... così, però abbiamo a che fare molto con le scimmie. No, sì. Voglio dire che sì, ce ne sono anche tante in giro. Voglio dire che molto spesso l'istinto dell'attrazione verso l'altro sesso tendiamo a sopprimerlo, invece in certe situazioni magari inconsciamente si risveglia. Io non ho visto la situazione di Vespa, eccetera. Però immagino che se la persona ha quel qualcosa, ti si riaccende dentro quell'entusiasmo. Eh quella sì, passione. Però mi scusi, adesso, se vogliamo rimanere su quell'aspetto, è chiaro: dentro i pantaloni di un conduttore televisivo si agita talvolta, è quello che si agita nei pantaloni di qualsiasi essere umano di sesso maschile. Ci vuole però, eleganza anche lì. Esattamente, però, bravo, ci vuole eleganza. Chiaramente. Perché trasportato su un piano aulico e di prima serata su Rai 1, in realtà è il lazzo sceno da bar quando passa la signora in mezzo agli uomini stravaccati al tavolino col caffè in mano, che uno gli fa il fischio, mettendola in imbarazzo. Ora, certo, non mi sembrava la Vallone molto imbarazzata, devo dire la sincera verità, fatti suoi. Però mi ha un po' divertito il fatto che si alzi un'altra donna, dico, vergogna, sono tua sorella. Quella dice, no, ma guarda, non ti chiedo nulla, anzi, guarda, sono bella contenta che mi guardino le tette. Ecco, beh, diciamo, gli estremi poi, come al solito, non vanno mai bene. Però, ripeto, a volte... Sono anche piacevoli gli estremi, a volte. Sì, indubbiamente, certo. Poi il contesto, magari, prima serata, certo, a volte non è magari il momento migliore. Beh, allora, diciamo, voglio sapere la sua esperienza personale. Lei si frena, si blocca, si tarpa le ali, si lascia andare... No. Io mi lascio andare, nel senso che se c'è una donna, una bella donna, gli faccio anche il complimento. Poi chiaramente il complimento deve essere un complimento non volgare, perché altrimenti scadiamo poi nel però brutto. Cerca un fulmineo punto di incontro emotivo con una persona che la colpisce, bella, brutta, culo basso, culo alto, intelligente, tutto, sente il fascino e questo fascino lo ricambia con una offerta di disponibilità, è così? Adesso non fino a quel punto, però l'apprezzamento, se c'è una cosa che mi attira, mi sembra giusto, insomma. Ma l'apprezzamento come gesto estetico finalizzato a un approfondimento? Potrebbe anche essere, certo. Perfetto, non si lascia chiusa nessuna strada. Grazie. Angela. Salve, buongiorno. Eccomi. Io vi telefono dalla provincia di Milano. Perché ha la voce mesta, Angela? Come? Perché ha la voce mesta? Niente, perché sono mesta di natura, forse. E la sua mestizia è palese al colpo d'occhio? Io non la vedo. Ah. Niente, io telefono perché... Ma perché mesta? Ripeto. Boh, così, perché non lo so, sono fatta così. Lei è bella dentro, appartiene alla categoria del culo bassismo, oppure ha degli orgogli estetici da ostentare? Io ho 63 anni, vabbè, che vuol dire? Mancando la giovinezza non sei più tanto belle. Però, cioè, ho sempre fatto di tutto per piacere e per essere bella e per essere anche ammirata, perché penso che ogni donna fa di tutto per... Non è vero che uno lo fa solo per se stessa, lo facciamo anche per noi stessi, perché è logico, dobbiamo piacere, sì, prima noi stessi. Quelle ipocrisie, le donne, una donna sì, che si va a comprare il filo interdentale, le reggicalze con i fiocchi, poi dice lo faccio per me, mi piace sentirmi bene. Beh, questa è un'altra ipocrisia. Si offendono da morire, ha capito? Cioè, quindi poi se si è sgarbati sì, ma se lo si fa con gentilezza, dire che non mi sembra che Vespa si sia comportato da manioco sessuale, okay? Cioè, no. Ha fatto un apprezzamento così. Sì, una piccola provolonata, ma non c'è nulla, mica una, cioè, cosa grave. È così che le donne sono delle ipocrite, anche queste femministe che vogliono di tutto, cioè ci sono molte altre cose. Molte, ecco, altre, ma l'ipocrisia, che la traduco in termini più gentili, è l'indecifrabilità, non fa parte del fascino della donna. Se una donna fosse limpia, chi vuole, sì, donne limpide? Anche quello, dico, non è, ma io dico tutte queste polemiche sono esagerate. E perché si fanno, secondo lei? Ma non lo so, perché sono polemiche che nascono... Ma per me sono cose più politiche che per veramente salvaguardare la donna. C'è sotto sempre la politica, che stufa in questo tempo sta politica. Beh, questa mattina... La mettono tutte le parti. Questa mattina i giornali sono pieni di politica legata a donne che giudicano altre donne. Alla deputata Angela Napoli, che si è lasciata andare in un dei trappoloni che fa Klaus Davi nelle sue interviste, ha detto, ma ci sono prostitute fra le parlamentari elette. Naturalmente tutte le parlamentari... dimostrando a volte, devo dirlo con tristezza, anche una coda di paglia, che uno dice, ma saranno prostitute, fatti loro, sono tutte alzate, dire, no, vergogna, questa sorta, ci saranno come ci saranno statisticamente in tutte le rappresentanze del genere umano. Andiamo avanti, Vincenzo. Sì, salve, buongiorno Nicoletti. Sì. Ascolti, allora, innanzitutto volevo dirle che è un piacere parlare con lei, perché io seguo la vostra trasmissione, seguo Giannino, seguo lei, seguo Cruciani tutti i giorni, e anzi le dirò, il mio, siccome faccio, passo quasi quasi la mia vita in auto. Sì, ma siamo tutti uomini, oggi parliamo di donne. Sì, siamo tutti uomini, parliamo di donne, però io volevo semplicemente dire, in relazione a questa storia della Vallone, no? Ma talvolta si pensa che l'intelligenza e la bellezza siano due cose che non vanno di solito, non camminano di pari passo. Il caso vuole che questa persona, che probabilmente ha vinto quel premio, e se lo ha vinto probabilmente l'avrà vinto a ragion veduta, oltre ad aver vinto e per sì. cui ha messo comunque in evidenza la sua intelligenza e la sua bravura, sì. probabilmente è anche una bella donna. Il fatto che si fa tutta questa polemica, tipo l'altra scrittrice che adesso mi sfugge il nome, Michela Murgia, qua non me la tocchio, un'amica mia. Sì, no, io l'ho ascoltata l'altra sera in un programma alla radio, e questa qui, insomma, urlava in tutte le maniere la sua rabbia, come se avesse... Vabbè, sarà arrabbiata, fa bene urlare. D'altronde sì. ha scritto un libro sulla femmina a Cabadora, che i miei ascoltatori affezionati sanno di cosa si tratti, che ne abbiamo parlato spesso, che la donna che aveva il grande privilegio di donare vita e morte. Nella comunità agreste sarda c'è questa donna che era levatrice, faceva nascere i figli, quando qualcuno era in odore di morte e non si decideva a morire, andava lì, dava una martellata in testa e lo uccideva. Le vere donne amano i preliminari, le coccole, e cercano sempre l'amore spirituale. Tale leggendaria e menzognera affermazione corre di bocca in bocca e attraversa tutto il pianeta. È molto utile agli uomini per fare distinguo tra le donne da sposare e quelle da usare per mero sollazzo. È fatale quindi che siano acclamate come ideali spose e madri di famiglie quelle che meglio sanno simulare distacco dalle carnali abiezioni e pacatezza di sensi. Ecco il tema che cercheremo di sviscerare nella seconda parte dopo l'informazione della borsa. Le donne devono simulare freddezza, devono simulare distacco dai piaceri carnali, perché ci sono le donne, le brave donne da sposare e le cattive donne da frequentare soltanto per il sollazzo. 800 24 00 24, a tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, qui me fascinaient, il y avait le val de son visage. Questi occhi d'opale, su questo viso pallido, avremo modo di intrattenerci, ma hanno qualche attinenza col tema di oggi, che parliamo dei luoghi comuni riguardo alle donne. Ve ne ho proposto un altro prima della sigla, che era la necessità di mostrare pudicizia, la necessità di mostrare distacco dalle carnali concupiscenze o degli apprezzamenti carnali, perché c'è un netto discrimine tra la categoria delle donne, e in queste donne sono implacabili a giudicare, che amano con piacere anche l'aspetto estetico e tutta la scia lunga delle sue conseguenze, quelle che naturalmente non rimanere gede, sono quelle che in realtà mantengono un'apparenza di come bisognerebbe essere, una sorta di rigore. Vediamo cosa ne pensa Giulia di questo. Giulia, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca, sono qua, sono proprio contenta. Senti, io volevo commentare la frase bella dentro, perché è una cosa che mi ha sempre veramente infastidito. Anche perché, diciamo la verità Giulia, dentro le donne non è che siamo poi tanto belle. Prova, no, apri una donna con un bisturi, le budella, gli intestini, ecco, le coratelle, è orrenda. Quello è dentro, perché quando uno dice sei bella dentro, vuol dire che hai un bel carattere, vuol dire che hai un bel atteggiamento. Allora quello è comunque una cosa che tu esterni. Sì, ma già è poco, non dice sei bella dentro, lì che sei brutta fuori. A chi lo dice? Sì, ma comunque niente. Se uno è bella dentro, in quel senso è bella comunque fuori, perché l'atteggiamento, la simpatia, il carattere a volte valgono anche. Tu come sei, Giulia? Com'è? Tu come sei, Giulia? Io non ti vedo. Senti, io ho un po' di difetti, però io mi vedo bella, mi sento bella. Quindi anche appartenendo alla categoria del culobassismo si può essere bella? No, non ce l'ho questa. No, è una categoria vasta, è per capirsi, ecco. Sì, certo. Certo, certo. No, io penso che, certo, se uno ha dei difetti grossi se li tiene, purtroppo. Però i baffi possono essere estetica, molti vengono corretti, per cui alla fine i baffi possono essere depilati. le disarmonie palesi possono essere compensate con l'allegria, la simpatia, la disponibilità, il vestito e via dicendo. L'odore corporeo, ahimè, se è proprio insopportabile, sì, è un problema. Ma dai, io non incontro di persone che puzzano così tanto. Perché non prendi le metropolitane, cara. No, le prendo, sì, è vero, a volte mi è successo anche di dover scendere, se ricordo bene. Sì, ma tutto questo fa parte comunque di messaggi corporei. Quello che alla fine voglio dire è che, come ha detto giustamente l'ascoltatore prima, l'ideologia, il punto di vista politico-ideologico sopraffa anche le nostre sensazioni, la nostra capacità di metterci in gioco con gli altri esseri umani, con gli esseri umani opposti a noi, che sono appunto le donne dal punto di vista dell'uomo e gli uomini dal punto di vista delle donne. Fanno sì che ci debba essere questa sorta di griglia necessaria di interpretazione. L'essere bella dentro è un valore superiore al fatto di essere bella fuori. E difendo le belle fuori perché non hanno nessuna colpa di essere belle. Possono essere anche stupide, possono essere intelligenti, possono essere quello che sono, ma per il fatto di essere belle sono già categorizzate. Le donne destinate al piacere, destinate alla dissoluzione, destinate ai danni nelle famiglie, destinate soprattutto a non essere intelligenti. Sei d'accordo? No, perché io trovo che oramai si sia un po' superata questa idea della bella stupida. È pienissimo in giro di ragazze belle, intelligenti. Penso che oramai si debba più considerare. Vado ancora oltre. Se sei bella, perché per forza devi anche dimostrare di essere intelligente? No, ma non è che devi per forza dimostrarlo, ma io trovo che di gente proprio stupida in giro non è che ce ne sia tanta, dai. Sei ottimista. Forse io le conosco tutte belle, intelligenti. Beh, adesso non è che si debba essere dei geni, però di ragazze stupide belle io non ne conosco. Conosco tutte ragazze in gamba. Sei molto fortunata, però tu avrai anche molti amici che ti frequentino con piacere di letto. Stefania, da Genova. Buongiorno Nicoletti, io non sono d'accordo per niente con lei stamattina, che di solito mi piace ascoltarla. Mi fa piacere. Allora, No, mi fa piacere che non sia d'accordo, almeno c'è uno scontro dialettico. Allora, mettiamo il caso che il premio lo presentasse una signora e vincesse Caro Figlio, e lei, tostandogli il pacco, gli dicesse: accidenti, che bel pacco che hai. Sarebbe un grande momento televisivo, scusi. Che cosa sarebbe successo in questo paese? Oppure avesse vinto Eco e gli avesse detto: cavoli, ma trovarti il pacco sotto quella pancia lì è un molto difficile. Cioè, l'uomo è autorizzato. Beh, guardi, posso dire una cosa? Lei pensa di dire un paradosso. Sarebbe stato un grandissimo momento di liberazione. Un evento per la televisione unico. Nessuna donna ha il coraggio di farlo. Lo faccia una donna e vediamo le reazioni. Mi piacerebbe, e sono molto divertito, le ha dato una grande idea. Però nessuna donna lo fa. Perché? Perché è imprigionata dal fatto, se anche ci butta l'occhio su quella meraviglia, deve far finta che non ci sia. O se anche gli passa per la mente quello che lei dice, probabilmente passa per la mente un'infinità di donne che sorbiscono la noia, il peso, la pesantezza di uomini che sentono affascinanti solo perché magari sanno parlare, perché hanno un ruolo, perché sono testati e riconosciuti ufficialmente come uomini di valore, e poi magari, che ne so, hanno quell'ombrichetto fra le gambe che a loro non dice nulla. Ditelo, questa è la mattina in cui le donne possono dire quello che pensano sugli uomini. Perché non è d'accordo con me? Mi sembra in perfetta sintonia con il mio pensiero. Né il décolleté della signora né il pacco di nessun altro. Voglio dire che se Benigni tocca il pacco a Baudo viene fuori una gag incredibile, se lo fa con la Carrà pure. Se una donna dovesse fare questo, cade il mondo. Allora, siamo ancora stereotipati, sì, è così, a questo fatto. Sì, alla così. Donna bella e poi ci dobbiamo aggiungere, perché mi scusi signor Nicoletti, a me lei non sembra né bello dentro né bello fuori. Assolutamente, se vogliamo, fisicamente, no? Però ha una gran bella testa, dice delle cose interessanti, allora dove dovrebbe essere classificato? Io pure lo dica sono lei. Brutta dentro e brutta fuori. E con questo, cioè, voglio dire, se ancora continuiamo a dare il fianco a questo gioco, andiamo sempre di più al mercato. Ma cosa fa? Come dice l'autrice del Corpo delle Donne, le donne non scendere in piazza a protestare il diritto di esistenza per i non belli né dentro né fuori. Ognuno con i denti e con le unghie si scava la propria trincea nella vita con le risorse che ha. Però impugnerei il diritto di non stabilire gerarchie di valori tra i belli dentro, i belli fuori, i belli sopra e i belli sotto. Io sono brutto dentro, brutto fuori, pazienza, che mi importa? Mi sono scavato la mia trincea e me la difendo, faccia lo stesso anche lei, ma mi sembra, guardi, che siamo in perfetta sintonia, rifletta e vedrà che è così. Marino da Brescia, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, una cortesia, mi stacco un attimo al discorso che ho sentito fino adesso, anche perché mi sono collegato poco fa, e sentivo, se non ho capito male, che si stava parlando appunto delle donne, dove si distingue quella un attimino più diciamo tranquilla a livello di esporsi sessualmente, piuttosto che quella un attimino più disinibita, giusto? Ho capito male? No, va bene, va bene. Ok, io volevo solamente fare una precisazione, questo è il mio punto di vista ovviamente, mi scuso se non sono concorde altre persone, però io penso che bonariamente le donne in linea di massima siano tutte uguali sotto questo punto di vista. Ovviamente loro sono un attimino più, come posso dire, pregiudicate, no? Quindi loro sanno di essere giudicate sotto gli occhi di vista maschili, e quindi ci sono quelle che si intimoriscono al pensiero di essere giudicate male, piuttosto che quelle invece che se ne fregano. Le donne sono un universo complessissimo, fantastico, meraviglioso. Se non ci fosse questa complessità, non avremmo bisogno di lavorare, di faticare, di andare in palestra, di studiare, di essere intelligenti. Saremmo degli abbrutiti che vivremmo soltanto per la mera sopravvivenza. Nella loro complessità, nel loro essere inclassificabili e allo stesso tempo categorizzabili in maniera indefinita, sta proprio la dinamica che muove l'universo. Il pubblico femminile. La ricerca di donne lettrici, ascoltatrici, guardatrici è la strategia disperata di mass media nell'ultima fase del loro impero. Di tutto si fa per interessare l'altra metà del cielo all'ultimo cascame dell'epoca della comunicazione. Le migliori tra le donne, però, si guardano bene dal cedere alle ricette di cucina, alle poste del cuore, ai sessuologi, psicologi, urologi e preti che vogliono stare dalla loro parte e aiutarle. Donne allo sbando senza compagnia, negli occhi hanno dei consigli e tanta voglia d'avventure, e se hanno fatto... Ecco, nell'attesa delle informazioni del traffico, questo è l'altro tema che butto sul piatto. L'umanità che sta dalla parte delle donne. Dalla parte delle donne ci stanno le donne, ci stanno gli uomini, ci stanno i preti, ci stanno gli specialisti, tutti stanno dalla parte delle donne. Ma le donne vogliono veramente qualcuno che sia dalla loro parte, o amano vedere le persone dall'altra parte? Questa è la domanda. 800240024, a tra un istante. I bagni delle donne negli autogrill dell'autostrada. È stata recentemente analizzata da alcuni antropologi urbani la superficie graffittata dalle gentili ospiti di passaggio nelle toilette pubbliche. Se vuoi che ti sdereni, chiama R al seguente numero. Ne faccio di tutti i colori, anche in gruppo. Sono F e mi trovi a quest'altro numero. Insomma, prima si pensava che fossero solo gli uomini così cinici da mettere i telefoni di amiche ed ex sotto forma di lubrico invito a sessuali abnormità nei pubblici luoghi di transito viscerale. Dopo la scoperta si è capito che in realtà lo fanno anche le donne. È stata una grande scoperta. Queste perle di saggezza fanno parte di quello che avevo scritto per il magazine del Sole 24 Ore un paio di mesi fa. Mi era piaciuto riflettere su alcuni punti, su alcuni luoghi comuni delle donne, e ve li ripropongo questa mattina. Io scoprì una volta, normalmente nelle toilette degli autogrill dell'autostrada, se uno va a vedere, sono tutti questi numeri di telefono di uomini che vogliono vendicarsi di ex amiche, di ex compagni, di mogli, fidanzate o anche di loro nemici, mettono cellulari scritti sul muro promettendo paradisi di perversioni impossibili. Mi era venuto il dubbio se la stessa cosa ci fosse nel bagno delle donne. Stavo con mia moglie, dico: senti, tieni, questa è la macchina digitale, vai anche te alla toilette, mi fotografi i muri. È stata una scoperta per me, esattamente le stesse cose. Quindi anche le donne hanno questa sorta di subdola tipicamente maschile, attribuita alla categoria infame degli uomini in maniera di rovinare la reputazione di altre donne. Quindi è giusto questo, è giusto anche il contrario di questo. Ci sono le donne paladine della dignità delle donne, ci sono donne profonde, meravigliose, perfide, sputtanatrici di altre donne. Ottaviano. Ma salve, buongiorno e tanti complimenti per la trasmissione. Sì, andiamo al punto. Andiamo al punto. Il punto. Ma io non credo che ci siano delle donne buone, adatte, cose delle buone cattive e delle donne cattive. Mi scrive un'ascoltatrice su Facebook: guarda che le donne belle sono anche le donne buone. Sì, in padella. Io credo che le donne siano degli esseri umani che hanno dei sentimenti, hanno dei desideri. Ma mica sempre, non è obbligo, ma non è obbligo avere anche dei sentimenti. Alcune le hanno, alcune no. Io credo che siano persone che sono normalissime, cioè non c'è questa, io non sono per questa divisione. Fra chi? Fra uomini e donne? Credo, non c'è fra uomo e donna, ma non c'è neanche tra donna e donna, nel senso che io credo che molto spesso siamo noi uomini a fare questa divisione e, per esempio, con la nostra partner, io credo questo, se siamo in gruppo e parliamo che, diciamo che le donne sono divise, per esempio, è chiaro che poi la nostra partner, se noi parliamo male di certi atteggiamenti, la nostra partner può avere dei problemi poi a essere normale, se volesse. Bene, lei si sta un po' aggrovigliando, però le dico, vede che dobbiamo noi comunque mediare ogni nostro istintuale punto di valutazione, perché abbiamo sempre una risposta sociale che dobbiamo dare. Lei si pone il problema di cosa può pensare la sua partner se lei liberamente si esprime su altre donne. Potrebbe creare problemi di complessi di inferiorità, acuirle sospetti che magari erano soltanto sopiti. In realtà non esiste una serena valutazione di quelli che sono i fluidi fascinatori che esistono fra uomini e donne. Però perlomeno io la penso così. Una donna per amico. Ci provano in tanti a confermare l'affascinante utopia della possibile amicizia tra sessi opposti. Gli unici uomini che si avvicinano a tale possibilità sono unicamente quelli che con le donne si scambiano lo smalto per le unghie e la crema depilatoria. Tutti gli altri sono sempre tormentati dal vergognoso, represso e lancinante desiderio di farsi l'amica. Qua forse sono stato un po' estremo, perché esistono dei momenti di profonda, solidale, tenera e disinteressata amicizia tra uomini e donne. Di solito avvengono quando già esistita, c'è stata già l'intima d'azione da tempo, si è assopito il messaggio di pulsione carnale, quindi quella donna con cui è esaurito quel tipo di spinta può essere un'ottima interlocutrice. In altri casi no, ci sono ottime amiche, però le ottime amiche, per essere amiche, devono rinunciare a qualcosa delle loro caratteristiche di essere donna, perché la mia amica, se non voglio vederla come donna, quindi non voglio accendere quei sensi di curiosità, di desiderio di condivisione, di ricerca di intimità, deve essere qualcuna che da quel punto di vista mi chiude gli interruttori, e se chiude gli interruttori quella donna deve comunque tarpare alcune delle sue possibilità di esistenza, di capacità di fascinazione, di socializzazione. Questo è un grosso problema. Valerio da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei. Sono scomparse le donne dalle telefonate, vedo soltanto uomini. Mi scusi, non ho sentito. Dico, valutavo il fatto che all'800240024 non chiamano più donne, soltanto uomini, come se avessero lasciato il testimone di parlare di se stesse. C'è questa sorta di reticenza. Ma penso che sia anche un universo autocompiaciuto, io me le immagino tutte quante, come dire, dietro la radio con l'orecchietto a spizzo a sentire così strenuamente tutte le possibili valutazioni sul tema. Sì, perché le donne sono molto curiose dei segreti degli uomini, perché noi uomini siamo ipocriti, timidi, infami. Io sono dispostissimo a raccontare qualsiasi segreto degli uomini. Potrei dirvi quali sono le statistiche di scorticamento dell'etichetta della bottiglia al ristorante. Quando andate al ristorante con qualcuno, chiedete al cameriere se osserva le bottiglie dell'acqua minerale o del vino. Quando delle coppie stanno sedute al ristorante, il livello di fascinazione o di interesse è dall'essere intonsa di quell'etichetta, perché l'uomo, quando si rompe le scatole, comincia a scorticare l'etichetta dell'acqua minerale, e più la scortica e meno gli interessa quella donna. Questo è un segreto maschile. Dite, se potete, alcuni segreti femminili. Vada avanti, prego. Ma io sostanzialmente, lei insiste molto sull'ipocrisia dei maschietti, ma io non sono per così del tutto convinto. Penso che un'altrettanta dose di ipocrisia sia anche delle donne. Cioè io, sì, ma posso dire una cosa? L'ipocrisia delle donne è fascino, l'ipocrisia degli uomini è squallore. Non so perché, però è così. Ma talvolta può anche essere una ipocrisia che manifesta anche incapacità comunicativa. Cioè noi abbiamo riscontrato che le donne siano più capaci di comunicare la sessualità e l'erotismo degli uomini. Secondo me non è vero. Anzi, talvolta noi sicuramente sbilanciamo e trasgrediamo talvolta nel volgare. Però secondo me il problema è proprio questo. Cioè la difficoltà oggi di comunicare a qualcuno che sei bella e dirlo in maniera elegante, raffinata e leggera. Però anche laddove si cerca e si trova il giusto mezzo, non si sa per quale motivo, si va sempre a toccare una pudicizia eccessiva e quindi una reticenza da parte della donna a sentirsi dire che è bella, e poi magari la provocazione, ma guarda, sono bella anche dentro, ma che palle, cioè, esattamente, quello che dico. La seconda parte che ha detto, la necessità di giustificarsi, lanci dei segnali palesi, appariscenti, libera poi di risponderne con chi vuoi, quanto vuoi, in che maniera vuoi, ma perché a questo devi aggiungere anche: sono professionalmente molto valida, sono anche intelligente, mi piace essere valutata anche per quello che faccio. Mi ha fatto scoprire la mia parte femminile. Si comincia sempre così nei discorsi tra uomini che parlano di donne negli spogliatoi del calcetto. È normale omettere che le donne di cui si ragiona, all'anagrafe, si chiamano Reginaldo, Manuel, Nazario. E ecco proprio quasi in conclusione quella che è il tristissimo esito di questa incapacità di aprirsi, di essere fluidi, di essere leggeri, è che gli uomini si creano dei simulacri femminili, come accade nelle carceri, come accade nei brigantini che attraversano gli oceani, come accade nei sommergibili, come accade in tutti i luoghi in cui gli uomini sono isolati. Fantasmi di donne vengono ricostruiti attraverso uomini. L'ultima edizione Miss Italia è allietata da questa notizia che ci sconvolge, ma poi manco tanto, che forse c'è un trans nascosto fra le finaliste, e quindi naturalmente tutti dicono bisogna fare una categoria anche per i trans. Si è creata una categoria intermedia fra uomini e donne, non essendo usciti a vivere in maniera leggiadra il rapporto fra sessi, si è creata una terza possibilità, una sorta di sfumatura. Lei cosa ne dice, Giovanni da Torino? Beh, io senta, mi sto chiedendo una cosa, dottor Nicoletti. Come mai c'è sempre questa noia da parte di certuni di noi maschi di associare sempre la bellezza femminile con l'eventuale stupidità? Io nella mia vita ho avuto... Non ho mai detto questo, io ho detto che non bisogna richiedere come necessità a una donna bella di essere anche intelligente, non è obbligatorio, se lo è meglio per lei e per tutti, ma se non lo è, pazienza, vale molto di più lo stesso, ha una fortuna che la natura l'ha dotata di apparenza fisica gradevole, l'intelligenza va coltivata. Spesso a volte si associa la bellezza femminile, deve dimostrare sempre qualche cosa la donna bella. Io non credo assolutamente. Purtroppo, guardi, le donne non sempre dimostrare qualcosa, questa è una grossa difficoltà, che debbono sempre dimostrare di essere all'altezza. Questo è vero, che la società maschile soprattutto richiede sempre alle donne uno sforzo maggiore. Però devo dire che anche gli uomini un pochino devono sforzarsi per entrare in questa fantastica sintonia. Questa mattina ho trovato fino a un certo punto, poi a un certo punto, cari ascoltatrici, vi siete nascoste, siete scappate, vi siete indignate o avete rifiutato di accettare, appunto, di entrare in questa possibile maniera di raccontarvi diversamente rispetto a quello che raccontano di voi i mezzi di comunicazione, le donne, gli uomini o i dissoluti come me, questa mattina non avevano niente di meglio da fare. A domani. Radio 24. La passione si sente. Alors tous deux on est parti dans tourbillon la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.